Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. La religione dei testimoni di Geova sconsiglia di partecipare alle competizioni elettorali, eppure accade che la procura di Napoli riceve esposti anonimi che segnalano brogli nelle elezioni comunali del 2010 a Casal di Principe, compresi quelli relativi alla falsificazione del voto proprio dei testimoni di Geova iscritti nelle liste elettorali. Costoro, per il precetto religioso, di solito non votano al loro posto, si sarebbero dunque recati sotto falso nome soggetti non legittimati. Per verificare se davvero vi fosse stato un utilizzo di tessere elettorali intestate a testimoni di Geova e ritirate fraudolentemente con l'apposizione di firme false e l'utilizzo di carte di identità contraffatte, cosa fa la polizia giudiziaria? Parla con Filiberto Corvino, guida spirituale dei testimoni di Geova a Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Casa Pesenna. Corvino conferma che per scelta religiosa i testimoni di Geova non partecipano alla vita politica del paese, ma che questo non costituisce un vincolo assoluto, restando ferma la possibilità per ciascuno di esercitare comunque il diritto di voto, ma solo ed esclusivamente sulla scorta di una scelta individuale. Corvino peraltro conferma che molti suoi confratelli avevano addirittura distrutto il certificato elettorale. La polizia giudiziaria a quel punto ascolta un campione di testimoni di Geova iscritti nelle liste elettorali del comune di Casal di Principe allo scopo di verificare se avessero effettivamente esercitato il voto in occasione delle ultime elezioni. Tutte le persone ascoltate, tranne rarissime eccezioni, confermarono di non aver esercitato il diritto di voto. Risultava invece che molti testimoni di Geova, che avevano formalmente dichiarato di non aver esercitato il diritto di voto, avessero invece votato. Miracoli di Camorra in terra di Camorra. Buona vita e a domani.